Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di Dalci in regia con la collaborazione di Francesco Galante. Squadra al completo, questa sera squadra tutta maschile, ma la voce, il tema di questo appuntamento è completamente femminile. Siamo alla riproposta per voi di uno degli incontri del gruppo di conoscenza e formazione sui nuovi movimenti religiosi. In questo anno 2016-2017 si è affrontato il tema alla ricerca di Dio nell'era post-secolare. Incontri sono stati realizzati dall'Ufficio Diocesano di Pastorale della Cultura, Ecumenismo e Dialogo in collaborazione con i Padri Gesuiti del Centro Giovanile Antonianum, la Cappella Universitaria San Massimo e la Fondazione Lanza. Ebbene, il tema di questa sera è estremamente affascinante, come affascinante, brava, preparata e coinvolgente è la relatrice, la biblista Rosanna Virgili, sul tema Credere al femminile, l'introduzione di Don Giovanni Brusegan, responsabile dell'Ufficio Diocesano di Pastorale della Cultura, Ecumenismo e Dialogo. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Buonasera a tutti, benvenuti. È una bellissima serata in cui vi trovo relativamente arieggiati, quindi sono contento di vedervi. Probabilmente conoscete già la maestra o la professoressa che ci parlerà questa sera. Allora, Rosanna Virgili ha un lungo curriculum che qualche discepola può già conoscere. Insegna nelle facoltà romane, è anconetana, marchigiana certamente, e insegna quindi alla facoltà lateranense che è in Ancona, ma ha una lunga militanza nelle varie facoltà e in vari luoghi dove fa conferenze. Il vescovo le ha telefonato per salutarla, quindi immaginate. No, io ho detto che i marchigiani sono più papalini del previsto, lei lo nega, va bene così. E allora questa sera noi continuiamo il nostro cammino che riguarda alla ricerca di Dio nell'era post-secolare. Abbiamo visto, siamo partiti un po' dalla situazione, per così dire, di indifferenza nell'era post-secolare e dei piccoli atei, cioè della problematizzazione che si trova soprattutto nei giovani, ma ci siamo chiesti, ma Dio è proprio necessario? E quale Dio? Abbiamo visto il taglio filosofico, poi siamo passati ai cattolici al tempo di Francesco. La volta scorsa abbiamo avuto il professor Pace che ha tematizzato su il credere tra emozione, ragione e spiritualità. E io sto cogliendo come oggi c'è veramente una esperienza religiosa che non segue più i temi di carattere razionale, dogmatico ed etico, che si sente scollata o libera rispetto a una chiesa e le chiese tradizionali e che vaga o cerca all'interno di questo risultato emozionale e di spiritualità personalizzata o soggettivistica. Per reagire abbiamo visto ancora con Terrin la volta scorsa un solo Dio e molti dei, quindi ci ha spiazzato perché ha recuperato questa fame e sete di Dio, di divino, facendoci cogliere come spesso il nostro monoteismo non risulta, almeno nel suo vissuto, adeguato a quella che è appunto la ricerca dell'uomo contemporaneo. Ma la donna, da che parte la mettiamo? Ci siamo chiesti, alcuni organizzatori, se c'è un credere al femminile. E io ho sentito, ed è stato criticato il titolo, e forse ha ragione, perché hanno detto ma non c'è un credere al femminile, un credere al maschile, al gender, c'è un credere tout court personale. Forse è la risposta più giusta. Allora, in questo labirinto e magma di maschi, ci siamo detti conviene far parlare una donna. E abbiamo scelto la Rosanna Virgili perché ci sembrava non solo adeguatamente puntata sul biblico, ma anche sull'attuale. E allora questa sera ci farà proprio questo credere al femminile all'interno della scrittura, e oggi noi siamo convinti che usciremo molto contenti dopo la sua relazione, dei brevi interventi e un cappello finale. E diamo inizio a questa incursione sapiente. Grazie. Buonasera. Dunque, no, non è vero che credere sia una cosa personale. Almeno nella Bibbia non lo è. Perché? Perché mentre nella nostra cultura molte cose sono diventate soggettive, e non sto a spiegare le ragioni, insomma, immagino che tutti loro le conoscano meglio di me. Nel mondo antico, nel mondo quindi che è riflesso nella Bibbia, parliamo di una letteratura che è stata messa per iscritto a cominciare da 2500 anni fa, ma che contiene, insomma, tradizioni orali che sono addirittura, diciamo, da collocare quantomeno fino al 1000 avanti Cristo. Quindi siamo con una cultura, abbiamo a che fare con la Bibbia, con una cultura antica, anzi più culture, direi perfino più civiltà. La Bibbia ha tre lingue, ha la lingua ebraica, la lingua aramaica e la lingua greca, e già questo ci può servire a comprendere che con la Bibbia noi abbiamo una grande biblioteca del mondo antico. Ma quindi che cos'era la fede nel mondo antico e nel mondo biblico? Erano scelte precise, erano fatti precisi. Addirittura il Nuovo Testamento chiama la fede depositum fidei, un deposito, quindi come fosse un conto corrente, insomma, o una, non so, una cassaforte dove si metta qualcosa di assolutamente solido, di concreto, di reale. E quindi non poteva essere soggettiva la fede. E maschile e femminile, uso proprio queste due parole, non sto dicendo maschio e femmina, ma maschile e femminile, quindi quelle parole che oggi traducono per noi il gender, che quando parliamo di gender parliamo di costrutto culturale, no? E non parliamo di sesso. Sex è un'altra cosa rispetto al genere, ma proprio parlando di costrutto culturale, noi dobbiamo riconoscere nella Bibbia proprio una grande diversità tra la donna e l'uomo. Perché? Perché vi erano dei ruoli molto distinti e molto precisi, e vi erano dei luoghi inaccessibili alle donne rispetto appunto a quelli cui invece gli uomini potessero essere ammessi, e viceversa. Tuttavia vi erano anche dei ruoli che gli uomini non potevano, diciamo, avere o svolgere perché erano delle donne. Ma tutto questo meriterebbe una introduzione lunghissima, forse ci vorrebbe un corso annuale su questo, ma noi non lo facciamo, andiamo subito proprio nello specifico del nostro tema, cioè la fede al femminile. Sì, nella Bibbia c'è una fede al femminile. Dunque, così concludo proprio questa piccolissima, diciamo così, esagoge, dicendo che siccome appunto il maschile nella Bibbia ha un luogo che possiamo definire istituzionalmente assolutamente superiore a quello femminile, istituzionalmente tuttavia le istituzioni vedono come protagonisti i maschi, soprattutto pensiamo all'istituzione politica della monarchia. I re in Israele sono maschi, quindi c'è Davide, prima Saul, poi Davide, poi Salomone, eccetera, eccetera. Anche l'istituzione sacerdotale è assolutamente maschile in Israele, quindi non sono ammesse le donne a svolgere uffici sacerdotali. il Tempio è nelle sue parti più sacre, quindi il Santo dei Santi, è soltanto segreto, diciamo, per i maschi e per i sacerdoti. Anche la profezia, che è istituzionale, ma è un'istituzione, è discusso se la profezia biblica fosse o meno un'istituzione, ma poniamo che lo fosse, abbiamo soprattutto profeti maschili, maschi, basti ricordare i titoli dei libri profetici: Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, Amos, Gioele, eccetera, eccetera, Osea, sono tutti maschi. Bene, allora, ma anche nel Nuovo Testamento, se basti, ecco, faccio come esempio semplicemente quello dei dodici. I dodici erano dodici uomini, quindi se quella è un'istituzione, si dice addirittura, è scritto nei titoletti delle nostre Bibbie, istituzione del gruppo dei dodici, era maschile. Gesù ha chiamato soltanto uomini, non ha chiamato donne ad essere, diciamo, apostole in senso istituzionale. Quindi certamente, siccome il maschile e quindi il credere, perché stiamo parlando di persone e di ruoli istituzionali assolutamente legati alla fede. Quando parliamo infatti di monarchia nel mondo del Primo Testamento, parliamo di preposti di Dio, i Messia si chiamano i re in Israele, quindi sono gli unti di Dio con le mani e attraverso le mani dei profeti. Quindi se c'è una caratterizzazione così chiara, così netta del maschile, è ovvio che, come dire, se facciamo, no, una specie di controluce, troveremo il femminile, troveremo il credere femminile. Allora, spero proprio che chi non abbia così indagato nella Bibbia su questo fronte possa trovare quest'oggi una grande sorpresa. Perché? Perché il femminile è molto presente nel suo modo di credere e soprattutto molto originale, molto diverso dal maschile. E ho provato, insomma, quindi sempre per necessità di semplificazione, a fare questa indagine, o meglio a proporla a loro, a presenti, attraverso cinque maniere, cinque modi di credere delle donne nella Bibbia. E poi, appunto, dopo questa prima indagine biblica, io cercherò così di fare una mia proposta legando questi cinque modi di credere all'oggi, all'attualità, come le donne oggi mostrano lo stesso la loro tipicità femminile nella fede. Mostrano e possono mostrare, quindi sarà una presa d'atto di quello che le donne fanno oggi nella fede, nella Chiesa e nella società, non solo nella Chiesa. E così però spero che possa esserci anche un monito, così un invito di fare, di crescere in questo impegno. Dunque, cinque: credere verso, credere per, credere quando, credere contro, credere in due. Allora, perché le donne credono verso? Perché il modo in cui esse entrano nella storia del loro popolo, e citerò dapprima donne del Primo Testamento, è un modo eminentemente politico. Politico. Che cosa intendo? Intendo che la donna crede verso il suo popolo, verso la sua società, verso la famiglia allargata. Potrà sembrare strano, non verso la famiglia personale. Allora, però devo fare un'altra piccolissima premessa. Nel mondo antico in generale non esiste il concetto di individuo, quindi pensare a una fede personale nel mondo antico è impossibile, perché non esiste il concetto di individuo. Chi studia questo fatto si accorgerà, appunto, che l'individuo nasce dopo la Rivoluzione francese. Un conto è la persona, un conto è l'individuo, d'accordo? Nasce poi con le democrazie moderne e contemporanee, dove ci sono i diritti individuali, ma nel mondo antico esiste sempre il gruppo. Quindi la persona, diciamo, la persona esiste nel mondo antico, ma la persona è un fascio di legami. La persona è il figlio di qualcuno, il padre di qualcuno, il marito di qualcun altro, il cugino di qualcun altro. Quindi c'è la famiglia, il clan, una famiglia non come la nostra, mononucleare, come la chiamiamo adesso la famiglia, non ci sono neanche i nonni nelle nostre case, eh? E quindi proprio tagliatissimo, proprio è un frammento di famiglia quello, se noi paragoniamo la nostra famiglia al modello appunto, non so, patriarcale. Modello patriarcale è quello di una famiglia assolutamente dove vivevano insieme cugini, mogli, no? Nonni, nipoti, pronipoti, insomma, un'altra cosa, assolutamente. Allora, in questo contesto, dunque, la donna che cosa mostra prima di tutto? Siccome lei non è, essendo allora, la donna è assolutamente moglie nel Primo Testamento, non potrebbe sostenersi, non esistono le vergini nel Primo Testamento, quelle verranno fuori nel Nuovo Testamento, e quindi lei, la donna, è moglie e non è titolare né dei propri figli né delle sostanze della famiglia. Allora, proprio è una... quasi una provocazione quella che sto lanciando. Questa sarà la sua fortuna da un certo punto di vista. La donna non è proprietaria. Non avendo, cioè è il marito che è proprietario, non so, dei suoi campi, dei suoi pascoli, eccetera. Anzi, la donna, perfino, questo è in qualche modo proprietà del marito. Quindi lei non possiede, ma adesso io voglio vedere, voglio aprire un aspetto positivo su questo. Perché? Perché non avendo una proprietà, lei viene quasi naturalmente convogliata a operare, ad agire per il bene comune, per il bene di tutti. E allora a mostrare quindi subito in questo credere verso che cosa? A mostrare che esistono, diciamo così, due modi di vivere nella società. Un primo modo è quello proprietario, quindi identitario, che non è l'individuo naturalmente, ma è l'identità. Mi spiego. Abramo aveva dei figli, Isacco aveva dei figli. L'identità alla famiglia di Abramo la dà, o di Giacobbe, la dà il padre. L'uomo, il maschio, dà il principio identitario, infatti sono i figli di Abramo, d'accordo? Il sangue è il sangue del padre, oggi noi diremo il DNA è quello del padre, quindi mentre il maschile crea identità e quindi creando identità di che cosa si occupa? Dell'interesse della propria famiglia, dell'interesse del proprio gruppo etnico. Quindi il maschile nella Bibbia è chiaramente identitario, è quello che poi tra l'altro diventerà molto forte nel periodo del giudaismo, quindi del secondo tempio, e contro cui lotterà fortemente il Nuovo Testamento, Gesù e anche Paolo, va bene. Ma questo invece la donna quando esce diciamo sulla scena pubblica. Faccio due esempi del Primo Testamento. Il primo è antichissimo, si chiama Debora questa donna, vuol dire ape, ma perché la cito? Perché Debora, Giudici 4-5, il capitolo 5 del libro dei Giudici, che riporta il canto famoso, il cantico di Debora, è il testo più antico della Bibbia. Testo più antico, è scritto, naturalmente è poesia, ed è riconosciuto da tutti gli studiosi come davvero un testo ostico difficile, eh? È proprio, diciamo, un testo da paragonare per il greco alla difficoltà, diciamo, di un testo omerico, ed è di una donna, è scritto a una donna. Ma chi è Debora? Debora è la moglie di Lappidot, quindi ha una sua vita, diciamo, familiare, diciamo, naturalmente la donna è moglie, ma è anche una profetessa e siede sotto, sotto un albero che è la palma di Debora, d'accordo? Ma, e quindi diventa una profetessa, ma quando veramente la sua fede diventa quella, no? Quel gesto oggettivo di cui parlavo all'inizio, che connota la fede biblica in generale, quando c'è un momento difficilissimo di Israele, per il popolo di Israele. I cananei stanno combattendo, gli Abin si chiama, contro Israele. Siamo ancora al tempo dei giudici, non c'è ancora re in Israele, quindi questo popolo, sì, no? Siamo appunto al libro dei giudici, Giosuè, la conquista della terra, ma sappiamo che la conquista della terra non si fosse conclusa con Giosuè, poi sarà molto difficile per il popolo che esce dall'Egitto, per questo popolo randagio, veramente occupare quella terra che teologicamente si chiama la terra promessa, però insomma una terra che era abitata, quindi insomma loro, gli ebrei, hanno fatto una grande fatica ad entrare in quella terra, d'accordo? Siamo in questo periodo e che accade? Che Israele sta per perdere la vita stessa, cioè questo popolo, che è un popolo ancora molto piccolo e che poi non è garantito, perché un popolo, diciamo, che viene dall'Egitto, erano stati in Egitto 400 anni o 430 a seconda delle varie edizioni su questo fatto. Beh, però appunto è un momento di vita o di morte, cioè se qualcuno non prende le redini dell'esercito di Israele, e quindi se veramente non crede che questo popolo possa farcela a restare vivo e quindi ad avere uno spazio in questa terra, e che quindi non abbia la memoria della promessa fatta da Dio, io vi darò una terra, che è questa, quindi la forza starà nell'esercito, ma soprattutto nella fede, nella fede. Questo popolo si perderebbe, noi non avremmo più futuro per Israele. Chi ha sbloccato questa situazione? Una donna, l'unica giudice di Israele. Sono 12 giudici, ma lei è l'unica giudice, antichissima, ed è veramente il suo un ruolo politico, un ruolo di governo, un ruolo di governo. Quindi chi dice che le donne non avessero ruoli di governo nel mondo antico, o chi ancora oggi continua a sostenere o a pretendere che nella Chiesa la donna non debba finalmente accedere a ruoli di governo, è ignorante circa la Bibbia e soprattutto, diciamo, non ascolta la parola biblica. La parola biblica va letta con molta attenzione. Però la Bibbia io la paragono sempre a un concerto. Il concerto qualcuno lo esegue un concerto, ma naturalmente c'è una scrittura. Io paragono le donne al pentagramma, il pentagramma della scrittura di un compositore. E questa è la Bibbia. I compositori spesso hanno nomi al maschile, tanto più gli esecutori della sinfonia o del concerto, ma le donne sono il pentagramma, cioè quelle che rendono possibile un'esecuzione musicale, d'accordo? E quindi davvero la scrittura di un testo. Ecco, Deborah davvero è collocata fin dall'inizio. La vocazione al governo, mi raccomando, non al comando, bisogna stare attenti con le parole, ma è molto precisa questa mia puntualizzazione. Al governo è, come dire, in maniera non solo consentita e non solo tipicamente femminile, perché no, ci basiamo solo sul caso di Deborah, no? Sono due capitoli nella storia dei giudici, ma è affermata questa vocazione della donna al governo nella grande sezione della Bibbia che va sotto il nome di testi sapienziali. I testi sapienziali riconoscono proprio alla donna la donna sapienza, no? Allora, libro dei Proverbi, Siracide, insomma, penso, no, che loro conosceranno i testi sapienziali che noi abbiamo nel nostro canone, noi, io dico, i cristiani cattolici, nella fattispecie. Bene, allora, la sapienza è il grande tema di questa sezione della Bibbia. Ricordo un attimo che sono, Primo Testamento ha quattro sezioni nella Bibbia cattolica, e sono appunto il Pentateuco, i libri storici, i libri sapienziali e i libri profetici. Quindi una sezione. In questa sezione si parla della sapienza. In greco, in ebraico si dice chokhma, ma in greco uno dei termini con cui si definisce la sapienza è kybernesis, da cui in italiano cibernetica, che sarebbe l'arte del nocchiero, no? Voi non siete a Venezia, qui però vicini, insomma, del navigare, l'arte del navigatore, della navigazione. Oggi noi chiamiamo cibernetica, sappiamo bene, la navigazione virtuale. E chi è la grande ciberneta? Come si chiama la sapienza nella Bibbia? Si chiama signora, signora sapienza. In francese, madame, chokhma, la madame, la signora sapiente, perché è scritto proprio così. E c'è un testo, ma un testo diciamo emblematico all'interno di un effluvio diciamo di testi, che è il capitolo 9 del libro dei Proverbi, dove appunto si fa questa sorta di descrizione della sapienza, una descrizione drammatica, nel senso proprio letterale di questa parola, cioè con movimento, con dynamis. E allora si dice così: la sapienza, signora sapienza, ha eretto, ha edificato la sua casa su 7 colonne. E poi che cosa ha fatto? Ha mandato 7 colonne, il numero 7, numero simbolico, per dire che fosse una brava edile. Sapienza è una brava edile. È una che sa, edile si dice, no? Come soggetto, nell'arte dell'edilizia, perché lei dice ha costruito la sua casa 916. Su 7 colonne, quindi insomma era un palazzo, non era una casetta, non era una capanna, non era neppure una tenda, ma proprio una casa. E poi dice, poi ha mandato le sue ancelle sulle sommità della città, sui luoghi più alti della città, a chiamare gli inesperti. Quindi è una donna che ha anche delle ancelle, per cui è una donna che governa una casa, e sa anche dare degli ordini alle sue ancelle, le quali vanno appunto a chiamare chi? Gli inesperti. Sono i giovani, ma anche i meno giovani, quelli che non conoscono che cosa? L'arte della vita, perché la sapienza è la via della vita. Via della vita, e quindi è assolutamente descritta al femminile. Sarà pure una metafora, ma anche no, vorrei dire. Perché? Perché lei è la grande costruttrice, no? Tanto è vero che nel capitolo secondo del libro di Genesi, quando si racconta per la seconda volta l'antropogenesi, o insomma l'origine dell'uomo, dell'umanità, uomo inteso come essere umano, mentre nel primo testo, Genesi 1, maschio e femmina sono creati sincronicamente, insieme, no? Dio creò l'essere umano, maschio e femmina li creò, erano così. Invece nel secondo capitolo noi sappiamo che poi quello che ha avuto più fortuna, purtroppo per noi femmine, per noi donne, nel corso della tradizione, quantomeno nostra, cattolica, è che è successo? Che lì si dice che prima Dio formò, va bene, formò, yazar, formò, è l'azione dell'artigiano, formò l'uomo, e poi però vide che era solo, disse non è buono che l'uomo sia solo, voglio fargli una corrispondenza, una compagna, che significa proprio una che stia davanti a lui, con cui lui possa parlare. Questa è l'altro, la donna, ma volevo arrivare qui per fare questo diciamo aggancio tra la sapienza, la costruzione del mondo, quindi la necessità di saper governare, di saper organizzare, perché costruire vuol dire prendere tanti elementi e farne veramente una cosa unitaria e quindi che funzioni, no? La società, la politica è questa, la politica è l'arte della polis, cioè nella città ci sono tante varie, no, realtà, eccetera, anche dal punto di vista sociale, ma chi costruisce, chi governa una città deve saper far interagire queste varie realtà, perché diventino appunto, potremmo dire, un corpo solo, e quindi il benessere sia veramente. Beh, allora dicevo che la donna, quando si dice appunto, no, che fece Dio? Riaprì, fece cadere un torpore su Adam e lo riaprì dalla parte sotto il cuore. Oggi molti scrivono così, non parlano più della costola, perché quella costola veramente è stata molto faticosa per la donna, ma la parte sotto al cuore. Dio prende quella parte sotto al cuore dell'uomo e vi costruisce, perché il verbo è banà. Banà significa costruire la donna, per cui la donna è già costruita. Perché si dice così? Mentre l'uomo è plasmato, Dio prende prende il fango, Adamà, e quindi diciamo prende una materia prima e fa un vaso che è l'uomo. Invece la donna è un prodotto più raffinato, insomma, dell'uomo, questo è chiaro, diciamo. Perché lui da un manufatto fa un prodotto più raffinato, e è vero, e quindi costruisce la donna. Quindi il verbo yazzar è diverso da appunto il verbo banà, la costruisce. Anche perché lei, che cos'è? Questi sono miti, naturalmente, no? Miti che hanno una grande teologia però dentro, no? Esprimono e una grande sapienza. Perché la donna prende nel suo grembo, prende la goccia di liquido e lo trasforma in 312 membri. Questa è la donna. Ecco perché è un edile, capite? Cioè il grembo. La donna prende una goccia di seme maschile, no? Neanche una goccia, una cosa minimissima, però vabbè, quello, e lo trasforma nel suo grembo in veramente una complessa costruzione, che è il microcosmo dell'essere umano. Tanto è vero, come si chiama, come si dice figlio, poi mi vado avanti, nella lingua ebraica, ben, da banà. Banà, costruire, figlio, il costruito. E chi l'ha costruito? La donna. La donna è un'officina, la donna, ecco perché lei è assolutamente l'economa. Quindi il suo modo di credere, perché l'economia significa nomos, legge della casa, regola della casa. Ma la casa, che cos'è la casa? Sì, la famiglia, ma anche nel mondo oikos in greco non significa solo la famiglia, casa, neanche solo l'edificio, ma significa tutti i beni di una comunità. Quella è la casa, no? Si parte con la famiglia, ma la casa poi è la chiesa nel Nuovo Testamento. Si dice casa e chiesa nel Nuovo Testamento, poi anche assemblea, diciamo, ecclesia, d'accordo? Perché è l'adunanza, no? che si ritrova nella casa. Bene, allora, sulle parole, sono, scusate, un po' filologica questa cosa, però noi siamo biblisti, quindi lavoriamo con le parole, però penso che siano piuttosto evocative. Di che cosa? Di questo credere politico della donna, di questo credere costruttivo, adesso abbiamo visto, dal punto di vista veramente del suo popolo. Quindi lei, quando esce, cioè insomma, non è assolutamente un principio identitario, ma nella donna c'è, chiamiamolo così, un principio universale. C'è poco da fare. Già appunto nella costruzione del figlio è una complessità, sono tanti membri che diventano uno, e così la donna veramente rivolge la sua fede verso che cosa? Una comunità, verso un luogo aperto, verso un luogo complesso. Pensiamo anche a un'altra donna, così, ma la cito solo perché veramente è troppo tardi, cioè solo il nome, Esther. Esther, varrebbe la pena qui, ma non possiamo farlo. Esther è interessantissimo, solo questo punto, immagino, visto che no, sento entusiasmo che loro conoscano la storia di Esther. Esther è una ragazza, insomma, così, che ebrea, che si trova a Susa, quindi ebrea della diaspora, e che viene a un certo punto, parto da qui altrimenti la storia è lunghissima, viene sposata da Assuero. Assuero è il grande re di Persia, e quindi però c'è un fatto molto curioso, che sapete come sono gli uomini, si innamorano, non neanche chiedono il nome alle donne, quando lei era bellissima, lui si innamora di lei e la sposa, è inverosimile in effetti, senza chiederle a quale popolo appartenesse. Invece lei era ebrea, ma lui non sapeva che fosse ebrea. E era talmente distratto l'assuero del libro di Esther che a un certo punto sigillò, suo sigillo, quindi fece diventare proprio, no, come dire, effettivo, un decreto di sterminio degli ebrei, eppure lui aveva sposato l'ebrea, insomma, va bene, però non lo sapeva, appunto. Allora che succede? Esther è fortunata, c'è questo decreto di sterminio, purtroppo fermato quella volta da Esther, ma non fermato nel secolo breve da nessuno di noi, insomma, riusciti a fermare il decreto di sterminio. E che successe? Lì che, dunque, Esther ormai è la moglie di Assuero, quindi sta dentro al palazzo. Fuori dal palazzo ci sono gli ebrei, i quali subiranno questo decreto di sterminio. C'è un tempo preciso, c'è un anno di tempo, bisogna fare presto, fermare, c'erano tutte le province, le 112 province, ormai avevano mandato, no, questo decreto a tutte le province, di qui a poco gli ebrei sarebbero stati sterminati. Esther non sa nulla, per fortuna che attraverso un eunuco, insomma, riesce ad avere una lettera da parte dello zio Mardocheo. Mardocheo gli dice: guarda che noi siamo tutti, verremo sterminati noi ebrei. E lei, ecco chi è, ecco che significa credere verso. Lei non aveva nessun vantaggio personale, un attimo di attenzione chiedo loro, a fare nulla, perché non aveva certamente il vantaggio, o anzi per lei sarebbe stato proprio un rischio, rivelare la propria identità di ebrea, no? Lei stava, ormai era protetta, era sposata dal re, stava dentro il palazzo del re. Invece che cosa fa? Ecco, qui si rivela la fede femminile, perché solo le donne fanno questo, almeno nella Bibbia, succede così. Lei che decide, benché non avesse il diritto di presentarsi a suo marito, perché il grande re era lui che poteva chiamare sua moglie perfino, ma non poteva la moglie prendere l'iniziativa, c'è il racconto, no, di lei che viene addirittura spaventatissima, ma va dal re, rivela la sua identità e dice: il decreto che tu stesso hai, no, senza rendersi conto, lui l'aveva diciamo firmato, questo decreto è ingiusto, lei rovescia le sorti. Questa è la fede, questa è la fede. Per noi oggi la fede, ma diciamo, penso la nostra concezione di fede abbia un'origine romantica, ma adesso sia proprio un fatto privato, no? Cioè la fede, ma non è neppure un sentimento. Io non so, certe volte, no, incontro delle persone e mi dicono: beata lei che ha la fede. Pensavo, ma chi serve la fede? Cioè, come se avere la fede fosse un caso, ma no, la fede sono fatti molto concreti, cioè sono scelte, questa è la fede verso, cioè lei rischiando per se stessa, che cosa fa? Salverà il destino dei fratelli ebrei. E quando si festeggia, quando si legge il rotolo, la Megillah di Esther, lo sanno quando? È una delle cinque megillotte dei fratelli ebrei, no? Per le feste si legge a carnevale, Purim. Il carnevale ebraico si dice Purim, e Purim sono i dadi. Pur significa dado, il dado, non quello Knorr, ma il dado dei soldati romani, cioè le sorti, no? Si lancia il dado, Purim. Perché i fratelli ebrei chiamano Purim, chiamano dadi la loro festa del carnevale? Perché c'è stato un rovesciamento delle sorti. Il nostro destino era segnato, era quello della morte, dello sterminio in tutte le province. Invece Esther, ecco perché si legge questa Megillah, Esther ha rovesciato le sorti, e proprio nei giorni di Purim arriva, che cosa? La sentenza di morte degli ebrei viene cancellata, gli ebrei sono come risorti, cioè hanno veramente recuperato la loro vita. Queste sono le donne. Questa è la fede delle donne. Dobbiamo dire che la fede è tutta uguale? No, io rivendico personalmente una diversità della fede delle donne. Nel Nuovo Testamento questo credere verso è rappresentato dalle uniche, diciamo così, gli unici soggetti, oltre a Gesù, che stanno al verbo diaconeo. Allora, diaconeo significa servire. Gesù sempre legate col governo, eh? Un attimo di attenzione. Gesù dice: nel mondo chi i re dominano le nazioni. Il verbo è kata kyrieo, dominano le nazioni. Questo è il modo di governare del mondo. Tra voi, dice Gesù, non sia così, perché tra voi chi vuole essere il sindaco, protos significa il sindaco, il primo cittadino, diciamo anche noi, sia il servo. È il servo che è il primo cittadino. Tra voi chi vuole essere grande, megas, quindi grandi, grandi della terra, diciamo, G8, sia il diacono. Perché io sono tra voi, tutti loro penso lo ricorderanno, anche i non credenti, insomma, questa è una frase famosissima di Gesù, io sono tra voi come colui che serve, cioè in greco il diacono, o diacono, o diaconos, il diacono. Gesù è re? Sì. Gesù governa? Beh sì, insomma, re. Come? Come diacono. La diaconia è il modo di governare della Chiesa, dovrebbe essere almeno. Vi vedo molto scettici, ma avete ragione, perché? Perché Gesù fino alla fine ha tribolato per insegnare il modo di governare ai suoi apostoli. Ci è riuscito? No. Non ci è riuscito. Tanto è vero che il verbo diaconeo non ha mai come soggetto gli apostoli. Ma chi ha come soggetto oltre a Gesù? Le donne. La dule è Maria. Ma ci sono donne che sono diacone. La prima donna diacona è la suocera di Pietro, perfino. Suocera di Pietro, ci sarà qualche suocera qui tra noi. Lei è la diacona, cioè chi governa la comunità. Non è quella che mette i fiori sopra i tavolini. Cioè, non è quella che noi parliamo... La diaconessa, oppure la diaconessa non usiamo questo termine, ma la serva oggi non si usa neanche più, per fortuna. Ma, ecco, intendiamo il servizio come, non so, la cameriera, eccetera. No, la diacona è chi governa, è la regina. E ci sono le tre donne, Maria di Magdala è la grande diacona, perché lei insieme alle altre due, Susanna e Giovanna, d'accordo? Marta, due volte il verbo diaconeo a proposito di Marta, non solo Febe, adesso sforiamo, andiamo nella lettera ai Romani, Febe si chiama o diacono, il diacono Febe, diacono della chiesa di Cencre, quindi... Questa è la realtà. Quindi il governo, il munus del governo, siccome sto facendo tardi, intanto vi voglio attualizzare subito, è delle donne, cioè assolutamente. Lasciamo perdere i ministeri ordinati, ma i munera dei sacerdoti, loro sanno che i sacerdoti li hanno presi tutti i munera poi, no? Giustamente, perché nessuno vuole togliere ai sacerdoti, sto parlando della Chiesa Cattolica adesso. Sono tre i munera, no? L'insegnamento, il governo e la santificazione. Lasciamo stare la santificazione, ma il governo sì, il governo la donna ce l'ha, c'è poco da fare, perché la sua fede è un credere verso. La diaconia, che cos'era? Marta, chi era? È quella che prepara la cena per Giovanni 12, no? Cioè l'ultima vera cena di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Di chi prepara la tavola, chi prepara la cena, non è in senso come potremmo intendere noi, no? Appunto il cameriere, il cuoco, no, è chi governa la comunità. Questo è il significato. Del resto, per chi è cattolico, cioè l'Eucaristia, che cos'è? Non è una mensa. E che c'è nell'Eucaristia? C'è il modo di governare il mondo, cioè di condividere i beni della terra. Questa è l'Eucaristia. C'erano 5.000 affamati e Gesù, invece di fare un miracolo, dice: adesso io faccio così con la bacchetta magica, questi sono tutti sazi. Come ha fatto Gesù a sfamare i 5.000 affamati, il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci? Condividendo il cibo che gli apostoli stessi avevano. Questa è una ratio economica. L'Eucaristia è una grande indicazione per il governo economico soprattutto, no? Bene, allora le donne sono le diacone, le governanti. Credere per, ma credere per davvero, no? Per me ha due grandi esempi, ma adesso devo andare proprio per titoli, tra poco suonerà la sveglia che l'ho messa, Allora, la prima è Giuditta. E la seconda è una donna che incontreremo, se insomma chi partecipa alle liturgie pasquali, la cito dopo perché è anonima, tra l'altro, mi piace molto quella donna. Dunque, Giuditta. Giuditta è una vedova. La sua città si chiama Betulia, ma Giuditta significa la Giudea. È una figura emblematica. Se Debora è all'inizio, diciamo, della storia biblica, Giuditta è alla fine, perché il libro di Giuditta è molto recente nel Primo Testamento. E quindi, vedete, formano come un'inclusione queste due donne, Debora e Giuditta. Giuditta si trova, è vedova, quindi, dunque, appartiene a una delle è una delle cinque categorie, diciamo, appartiene a una delle cinque categorie che sono considerate le più sfortunate nella società ebraica. Chi sono infatti i più sfortunati, di cui il re si deve occupare in Israele? Sono i poveri, gli stranieri, le vedove e gli orfani, le vedove e gli orfani, i leviti naturalmente, e insomma i leviti sono gli ultimi, le vedove, gli orfani e i leviti sarebbero i sacerdoti, perché non hanno la loro parte, quindi ai leviti va la decima o l'otto per mille, che sarebbe più o meno la stessa cosa, ma insomma un po' diversa. E va bene, facciamo perdere i leviti, torniamo sulle vedove. Quindi la vedova poverina non aveva nessun titolo, la vedova, insomma, a quei tempi, oggi le vedove almeno prendono la pensione o qualche cosa, ma insomma davvero era una cosa terribile a quei tempi. Dunque, quindi che succede? Questa città è assediata da un esercito numerosissimo, è barricata, diciamo, dentro le mura, ma naturalmente i pozzi stanno fuori dalla città, la città ormai ha esaurito tutte le sue riserve di cibo e sta mancando l'acqua. Allora gli abitanti della città vanno dal re e dicono consegniamoci al nemico, perché se non possiamo vedere morire i nostri figli di sete, no? Perché muoiono prima i bambini e gli anziani. Allora il popolo voleva consegnarsi al nemico e il re dice diamo cinque giorni a Dio, cioè se ci manda la pioggia, praticamente dice se entro cinque giorni ci manda la pioggia, d'accordo, altrimenti noi ci consegneremo al nemico. 10 minuti me li dovete dare, 8 minuti, grazie. E allora che succede? Questi sono tutti uomini, il re e gli anziani, gli uomini, che loro sì che hanno veramente hanno il potere politico, istituzionale, come ho detto all'inizio, decidono di dare un tempo a Dio, appunto, va bene, dice, se entro 5 giorni. Giuditta viene a sapere questa cosa. E guardate che fa Giuditta, che non è nessuno Giuditta, non è un ministro, cioè non ha nessuna possibilità di intervenire su delle figure, no, sulle decisioni di figure istituzionali come quelle del re e dei suoi senatori, diciamo. Invece lei che fa? Viene a sapere questa cosa, guardate la dignità di questa donna pur vedova, manda a chiamare gli anziani, non va lei, li manda a chiamare. E quindi richiamando davvero al ruolo politico di questi anziani, di questi senatori, senatori anche nostri dovrebbero ricordarsi ogni tanto che siamo noi che li abbiamo eletti, quindi insomma che sono qui per noi, ecco, voglio dire, e quindi quando li chiamiamo dovrebbero venire, ecco. Il Papa almeno ci va, no, a trovare la gente, bel esempio. E quindi va bene, e quindi lei però questa vedete grande consapevolezza politica ce l'ha questa donna, e allora li chiama e indovinate che fa un discorso straordinario che loro potranno godere comunque se lo leggono tutto, capitolo 8 del libro di Giuditta, è il cuore del libro, e lei dice chi siete voi per dare un tempo a Dio? Dice la decisione che avete preso è assolutamente errata. Quindi esprime un giudizio, e la vediamo, no? Proprio con l'autorità di poterlo fare, e dice, ma voi che non conoscete neanche il cuore dell'uomo, come potete pretendere di conoscere, di possedere i pensieri di Dio? Questa è la fede. La fede non è dare ordini a Dio. La fede è una relazione di libertà e di stima vicendevole tra l'uomo o l'essere umano e Dio. Che dignità! La fede non è un pensiero. Noi ci costruiamo la fede. La fede, credo o non credo, vabbè, siamo da soli in effetti. La fede è rispettare Dio. Cioè, perché tu devi costringere Dio entro 5 giorni? Chi sei tu per fare questo? Tu che non conosci neanche il cuore dell'uomo, che, per chi conosce un po' la Bibbia, il cuore dell'uomo in effetti è proprio il luogo dove la fede biblica ci manda prima di tutto a conoscere Dio. Che nella Bibbia, se c'è un luogo dove possiamo conoscere Dio, è l'essere umano, no? Perché come lo creò Dio? A sua immagine e somiglianza. Ma ecco perché Giuditta, la sapienza di questa donna, ci vuole una conoscenza per poter... ecco perché Giuditta dice, ma voi non conoscete neanche il cuore dell'uomo, quindi se già conosceste il cuore dell'uomo potreste anche farvi un'idea di Dio, ma voi non conoscete neanche il cuore dell'uomo, quindi come potete conoscere Dio e i suoi decreti, le sue decisioni? Dice, Dio potrebbe benissimo non far venire la pioggia o potrebbe farla venire il giorno dopo. Questo è molto importante, questa è una fede importante che io chiamo una fede per. La fede è un atteggiamento per. Non è un possesso di qualcosa, una sicurezza. Questa è tipicamente femminile, Giuditta. L'altra è la donna anonima che troviamo all'inizio dei racconti della passione, sia nel Vangelo di Matteo sia nel Vangelo di Marco, ed è una donna che si trova a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Chi appunto verrà letto questo testo nella Settimana Santa, e c'è un fatto. Allora, i racconti della passione di Gesù sono, io li chiamo così, racconti di un tempo di oscurità assoluta. La notte, chi fa notte su quel tempo? La comunità stessa di Gesù, perché sarà Giuda a consegnare Gesù, Pietro a rinnegare Gesù. Lasciamo poi i dottori, d'accordo, è la comunità che si divide e abbandona Gesù. Versetto 50 del capitolo 14 del Vangelo di Marco, se loro vogliono andare a leggerlo. Tutti si diedero alla fuga e si dispersero. Chi? Gli apostoli. Gesù andò sulla croce con solo le donne lo seguivano, ma non nei Vangeli sinottici. In Giovanni c'è un discepolo amato, ma i 12 tutti no? Si perdono, d'accordo, poi dopo il Signore andrà a cercarli una volta risorto, va bene. Invece questa donna per fortuna che è lì, perché la sua veramente è una fede per. La fede degli apostoli è fragile, non resiste. Gesù l'aveva chiamati a seguirlo, no? Dovevano fare questo loro, ma loro si interrompono quando? Quando Gesù va a morire. Pietro rinnega Gesù addirittura, dice per paura, no? Dice io non l'ho mai conosciuto. Questi fatti ultimi che la Chiesa va a celebrare tra pochi giorni ci mostrano che cosa? Proprio un credere sottile degli apostoli, cioè fragile, non resistente, e invece un credere per forte delle donne, e specialmente di questa donna, la quale, mentre Gesù era a cena lì in casa di Simone il lebbroso, prende un vaso di dove c'era nardo profumato e che cosa fa? Lo versa sul capo di Gesù. Chi faceva questo nel Primo Testamento? I profeti. Quando bisognava fare un re in Israele, cioè il re, no? Il popolo voleva un re, che disse Dio? Dio chiamò un profeta che si chiamava, il primo profeta è Samuele, e disse prendi un orcio di olio e va da Saul, poi va da David. Così si consacravano i re. Questa donna dunque che gesto fa? Questa è la fede. In questo gesto sta la fede. In che cosa? Loro domanderanno. Nel Gesù Messia, nel Cristo, nel Messia. Se non ci fosse lei a dirlo, non lo dirà certamente Giuda, non lo dirà certamente Pietro, ma neanche Giacomo, ma neanche Giovanni, ma neanche Bartolomeo, eccetera, eccetera. Nessuno dei 12 lo dirà. Scusate, mi infervoro perché ogni volta che ci ripasso mi emoziono. Ma è giusto. Cioè, i testi parlano talmente chiaro. 3. Credere quando? Quando le donne credono, dunque? Legatamente proprio a questo fatto. Alla fine. Le donne credono alla fine. Le donne credono quando ormai tutto sembra perduto. Sempre così. Deborah l'abbiamo citata, ma non so, le donne proprio le grandi eroine, no? Appunto, abbiamo citato anche Giuditta, ma c'è una figura straordinaria che davvero di cui si parla poco, è Rispa, è una madre, era una concubina di Saul, la troviamo nel secondo libro di Samuele al capitolo 21, è poco conosciuta, fa piangere questa donna, la paragona alle madri di maggio, no? Perché questa donna era stata appunto una concubina di Saul. Saul è morto, adesso Davide deve pagare un debito contratto da Saul. Davide è il re che succede a Saul e insomma deve dare 7 figli di Saul perché Saul aveva ucciso appunto i figli dei suoi nemici, no? E quindi i nemici vogliono 7 figli di Saul. Rispa ha 2 figli perché era concubina di Saul e poi vengono presi 5 nipoti, vengono uccisi di fronte al popolo perché il popolo deve vedere, naturalmente, e come fanno gli americani ancora oggi, no? Quando si devono vendicare, Saddam Hussein, no? Abbiamo visto tutto, la morte di Saddam Hussein, così si faceva nel mondo antico, perché bisognava dare la lezione, bisognava dire il prezzo è pagato, la vendetta è consumata. E allora però questa madre, perché vennero impiccati dove? In aperta campagna, perché gli impiccati sono maledetti, quindi devono stare, no? Sono la carne della vendetta. E questa donna non torna a casa. Era il tempo della prima erba, quindi diciamo aprile. E questa donna resta lì, il testo dice, fino alla prima pioggia dell'autunno. Quindi diversi mesi resta. E che faceva lei? Di giorno cercava, custodiva i cadaveri dei suoi figli. Di giorno perché gli animali selvatici non li ghermissero, e di giorno i volatili, gli uccelli. Finché qualcuno riferisce a David, c'è una donna che sta ancora lì. E sapete che fece David? David fece una cosa che è un segno di passaggio di civiltà, cioè diede sepoltura a quei cadaveri. La sepoltura dei cadaveri, chi la insegna? Le donne nella Bibbia. Guardate che non è una cosa da poco. La nostra civiltà si fonda su 2 grandi pilastri. La nostra civiltà, ma non cristiana, cioè la civiltà mediterranea. Quali sono? Primo, la sepoltura dei cadaveri. Se non avessimo le sepolture non avremmo neanche, no? Nella preistoria, molto prima della scrittura, nel bacino del Mediterraneo. E il secondo, loro lo sanno, è l'ospitalità. La nostra civiltà occidentale si fonda su questi 2 primi pilastri. Poi ci sono tante altre cose, ma è interessante che qui sia una donna a farlo. Perché? Perché c'è un quando della fede. Questa donna dice, una cosa straordinaria, che l'essere umano non finisce con la morte. E vi pare niente? Perché? Perché se io lo amo, questo essere umano, questo continua a vivere. Questa è una concezione della vita, che viene da che cosa? Dalla fede. Quando noi, anche noi come Chiesa, siccome qualcuno si è permesso di dire che i marchigiani sono tradizionalisti, non è vero affatto. La vita non è la biologia. Anche noi come Chiesa Cattolica, quando ci accaniamo sulla questione bioetica, no, la vita è una questione di fede nella scrittura. Di fede, che significa? Che cos'è la vita? La vita mia, io posso morire, ma se c'è una madre o se c'è un figlio che fa memoria, io non muoio. La vita è memoria. E se è memoria, non può finire con la nostra morte. E quindi l'amore fa la differenza. Questa donna resta lì e David crescerà come re, perché capirà che quei cadaveri debbano essere sepolti. Cioè, guardate, tra l'altro la sepoltura significava prendere possesso della terra. Insomma, e va bene. E questa donna, dove la troviamo nel Nuovo Testamento? Con un altro nome, ma Maria di Magdala. Che va a fare la mattina di Pasqua Maria di Magdala? Ad esprimere una fede. Quando? Ma ormai è morto. Pensate, gli apostoli se ne sono andati prima ancora che fosse condotto fuori dalla città. Ormai è morto, è finita. Quando Gesù parlava del suo destino di morte, sapete che dicevano gli apostoli? A che pensavano? Non ce l'ho con gli apostoli, eh? Pensavano a chi tra loro fosse il più grande. Cioè, detto in maniera proprio, il successore. Lui muore, è il capo di questa comunità, ma chi verrà dopo? Un cinismo terribile, quello degli apostoli, ma questa è la storia. Il Vangelo di Luca lo mette la sera dell'ultima cena, questo discorso. Invece le donne vanno, Maria di Magdala, quando devi credere? Quando quell'uomo ormai è a cadavere. Ma lei non può non credere, va lì e aspetta e piange. Giovanni 20, capolavoro. Questa donna giustamente è stata chiamata in un libro molto bello che è stato pubblicato 4-5 anni fa, la seconda madre di Gesù. Gesù ha una madre nel corpo che è Maria, ma c'è una madre del corpo risorto che è la Maria di Magdala. Nella lingua ebraica ventre e tomba sono quasi uguali, kerem è ventre, ventre materno, e kerev è tomba. Maria, la Maria di Nazareth, no? Partorisce dal ventre, la Maria di Magdala partorisce dalla tomba, perché le sue lacrime, che pure fanno parte del parto, no? Le lacrime, il grido, tirano fuori Gesù, resta lì, sta lì finché alla fine Gesù non viene fuori. Questo è credere quando, ma adesso vi prometto un minuto e mezzo, credere contro. C'è anche un credere contro, e qui avrei dovuto dedicare più tempo, ma magari queste cose sono più, la donna crede contro la legge, c'è poco da fare, la donna è emorroissa. Nel Vangelo di Marco, nel Vangelo di Matteo, nei Vangeli sinottici, se la ricordano, la donna emorroissa era una donna che da 12 anni aveva un flusso di sangue. Il libro del Levitico, capitolo 15, dice che cosa? Che la donna mestruata non può è impura, quindi non può toccare nessuno. Se la donna mestruata fosse stata trovata in un amplesso, sarebbero stati uccisi, si sarebbe dovuto procedere ad uccidere ambedue. Quindi questa era la legge, ma che fa la donna emorroissa? C'era una ressa intorno a Gesù. La folla viene continuamente citata. Siamo nel capitolo 5 del Vangelo di Marco, versetti 21, vabbè. E lì naturalmente che cosa accade? Che questa donna, che fa? 12 anni erano che aveva questo flusso. Era come se fosse sempre mestruata, quindi isolata. Perché non poteva neanche usare, diciamo, un sedile, perché pure quello diventava impuro. Non poteva toccare un suppellettile, tutto diventava impuro. Il sangue è impuro, il sangue mestruale, il sangue femminile, perché impuro significa che porta la morte con sé. La donna diventa pura quando non ha più il ciclo, cioè è incinta. La purezza significa la fecondità nella mentalità biblica, d'accordo, e religiosa, quindi non biblica. Allora, lei che cosa fa? Crede contro. Perché sente dire che arriva Gesù, che fa? Per arrivare a toccare Gesù, quanta gente ha contaminato? Una marea. Forse non ci avevano pensato mai a questo. Perché quando Gesù sente che qualcuno dice, chi mi ha toccato? E gli rispondono i suoi, probabilmente gli apostoli, e rispondono, Signore, ma tutta questa gente, come facciamo noi a sapere chi ti ha toccato, no? Questo che significava? Che per andare da Gesù lei ha contaminato mezzo mondo. Questo significa credere contro, è sovversiva la fede. Anche la fede di Gesù è stata sovversiva. Inutile, adesso non mi dilungo, perché penso che sì, però bisogna riflettere su questo. Sovversiva perché? Perché non ne poteva più, Che cosa vuol dire? Tu credi contro quando sei schiacciata? Quando la legge che era data all'ebreo per la vita ti condanna a morte. Ma questo può accadere anche nella Chiesa. È accaduto anche nella nostra Chiesa. La legge cristiana, tra virgolette, quante donne ha condannato a morte? Faccio solo un esempio, a morte nel senso lato. Il modo in cui è stata interpretata la lettera agli Efesini, capitolo 5, versetti 21, 33, 34 almeno, tutta questa parte della lettera agli Efesini, quando noi leggiamo dal versetto 22, e non leggiamo dal versetto 21, abbiamo tante volte fatto questo errore, diciamo, che voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti. Questa frase è stata all'origine della legittimazione a picchiare le mogli addirittura. Guardate, io lo dico con un dolore estremo, io non ho vissuto per fortuna questi periodi, ma quante donne ho conosciuto. Mi viene da piangere a pensare quante donne. Davvero, e conosco ancora donne che dicevano questo testo, signora, Paolo, Paolo è l'interpretazione, come la legge, no? La legge, Gesù non criticava la legge di Mosè, criticava l'interpretazione della legge, l'ermeneutica della legge che avevano i fratelli ebrei, ma che poi noi abbiamo avuto lo stesso, abbiamo letto la scrittura prendendo dei versetti e usandoli a suffragio di una cultura estranea a quella della fede biblica. La fede biblica, lo dice la Dei Verbum, Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II, è la scrittura, è parola di Dio in parole umane. Quindi bisogna naturalmente storicizzare tante cose, per forza. Bisogna conoscere la storia, ho fatto la premessa. È una letteratura che va da 3.000 anni fa a 2.000 anni fa. Non si fa una lettura fondamentalista della Bibbia, che significa uccidere la Bibbia, uccidere la parola di Dio, e comprendere invece la grandezza di quella parola. Perché sì, siate sottomessi ai vostri mariti, come però la Chiesa è sottomessa al Cristo. Il segreto, come nella nostra breve, no? Adesso vado all'ultimo, che è il quinto, è nel come. La fede dipende da come sia. Tanto è vero che dice, il marito infatti, sì, è capo della moglie, ma os, come Cristo è capo della Chiesa, cioè com'è Cristo capo della Chiesa? La domina, ma com'è? La serve, bravissimi. E lì Paolo dice, o l'autore del libro della lettera di Efesini dice, come salvatore del suo corpo. Questa è la sottomissione. Andrebbe anche bene essere sottomesse, cioè legate, fedeli, a che cosa? A chi salva il tuo corpo. È una cosa straordinaria. Lo salva. Perché no? Perché ti permette di essere una fonte di vita, pensiamo anche alla maternità, ma lo salva nell'amore, no? Per metterla davanti a sé tutta bella e senza ruga. Il marito è meglio di un chirurgo estetico, diciamo, e in quel caso. Ma se queste cose noi non le approfondiamo, e allora significa. Dunque, quindi, credere contro significa è fare come la donna emorroissa, nei casi poi anche della fede. C'è un'ultimissima, la Sirofenicia, Marco 7, e il testo sinottico di Matteo, che si trova a capitolo 15. La donna Sirofenicia è una donna che, appunto, non appartenendo al popolo ebraico, è una straniera, parla greco, e allora lei ha una figlioletta, in un caso appunto che ha uno spirito immondo, forse malata, eccetera, e allora chiede a Gesù appunto di venire a guarirla, e Gesù dice, ma no, dice, io sono stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele, come dire, per me non c'è spazio, per te, perché tu sei straniera. Chi sono le donne che credono contro? Sono le donne che abbattono i muri religiosi, culturali, politici, questa è la fede delle donne, questa abbatte il muro che separava i giudei dai fenici, dai siri fenici. Come risponde a Gesù? Tiene testa Gesù. Come gli risponde? Sì, signore. No, ma dice, non è bene prendere il cibo dei figli e darlo ai cagnolini. E lei risponde, ma anche i cagnolini mangiano quello che cade. Avete visto? Che bel tipo questa donna. Discute con Gesù contro la sua tesi e Gesù perde con lei, perde. Beata sconfitta, perché? Perché le dà ragione. E lei dice, grande è la fede di questa donna, la fede. Credere contro. L'ultimissima è credere in due. Le donne insegnano questo, che la fede non è un fatto personale o privato o individuale. Perché? Perché per credere bisogna fare una cordata. La fede è una cordata, come per andare in montagna. La fede non è un sentimento, come diciamo, abbiamo detto tante volte. Le donne ci insegnano che noi abbiamo bisogno della fede dell'altra. Maria e Elisabetta, per me sono, ho scritto un piccolo libro per farvelelo vedere, però mi piace questa tesi, scusate, no, è così, se qualcuno volesse, no, è esaurito, quindi vabbè, prossima, penso edizione, però la mia intuizione era proprio questa, ma dietro a uno studio, anche gli uomini fanno fatica ad allearsi, no? Ma quando la vocazione deve essere forte ci vogliono sempre due. Le donne si alleano. Ruth e Noemi. Ruth è la giovane straniera nuora. Noemi è l'anziana oriunda, perché è la betlemmita, e suocera, che c'è più distante della straniera, ma anche della suocera e della nuora. Si legano insieme, esse che non avevano figli, quindi erano e non avevano più ormai, e non avevano pane, dall'alleanza di due povertà, di una nuora e di una suocera, due donne, perché le donne sono, se non c'è un uomo, no, nel mondo antico tu i figli non li puoi avere, no, pensiamo anche al lavoro, il pane, ma due mancanze o manchevolezze, non so come, no, anche manchevolezze no, ma mancanze, cioè questi due vuoti, pensate anche al grembo, all'utero che è vuoto, no, si riempiranno di che cosa? Della loro fede alleata. Si metteranno insieme. C'è un giuramento che Ruth fa a Noemi e dice: dove tu andrai, io andrò. Dove tu ti fermerai, io mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Più ecumenismo di questo. E più anche, io direi, legame tra le varie religioni, no? E proprio no, assolutamente universalità della salvezza. Maria ed Elisabetta sono lo stesso. La mia lettura dell'annuncio a Maria, concludo, è questo, che Maria appunto si convince di dire di sì, quando dirà alla fine, dirà, no, l'angelo, prima si turba, lui annuncia questa nascita del figlio di Dio, di Gesù, e lei fa un braccio di ferro con l'angelo. Alla fine l'angelo dice, anche Elisabetta, tua parente, è incinta. E questo è il sesto mese per lei, che tutti chiamavano sterile, perché nulla è impossibile a Dio. Beh, questa è la frase della fede, nulla è impossibile a Dio. E lei, quando sente dire che c'è anche Elisabetta, e che quindi Elisabetta prima di lei ha creduto, lei dice, sì, va bene, ecco l'alleata di Dio. La serva del Signore diventa l'alleata di Dio. Va bene, adesso mi fermo e basta. Grazie. Grazie. I giorni della Chiesa. Gli applausi per la competenza, la bravura nel presentare questo tema, questo percorso all'interno della Bibbia. Rosanna Virgili, biblista, sul tema Credere al femminile, uno degli incontri del gruppo di conoscenza e formazione sui nuovi movimenti religiosi, promosso dalla Pastorale dell'Ecumenismo, della Cultura e del Dialogo, in collaborazione con i Padri Gesuiti, Centro Giovanile Antonianum, dove questo incontro si è svolto, la Cappella Universitaria Massimo e la Fondazione Lanza. Ringrazio Francesco Galante di Daice la parte tecnica, il Centro Giovanile Antonianum e appunto Don Giovanni Brusegan della Pastorale dell'Ecumenismo. Da Mirko Cavallina a voi tutti buon proseguimento. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.